Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Stavo per uscire dalla stanza per andare a telefonare a qualcuno quando ho sentito un rumore quasi impercettibile, il fruscio delle lenzuola. Mi sono voltata. John era in piedi e veniva verso di me. No! Il resto della storia, John, l'avevano letto tutti sul Times. Sono Sibyl. Ti prego. Lui, John, la aggredì e Sibyl lo ammazzò davvero. Vai via, John! Piantandogli un paio di forbici in testa. Avete un grande privilegio, o ascoltatori di Radio 24. Avrete possibilità di avere una edizione radiofonica, un'interpretazione della radio, una narrazione attraverso la radio di quello che è il personaggio tra i più noti, tra i più amati, tra i più letti, quelli che creano più entusiasmo della produzione di storia fumetti in Italia, Dylan Dog. Poi vi darò gli estremi, vi darò come, dove, quando, dal 1 ottobre potrete sentire anche Dylan Dog alla radio. Però volevo darvi qualche impressione per iniziare a parlare anche voi di Dylan Dog per quanto potete. Non credo che tutti totalmente lo conosceranno in maniera approfondita, ma ci saranno pure nel mio pubblico degli appassionati, quelli che sanno tutto di Dylan Dog, quelli che lo cominciavano a leggere nei banchi dell'università a metà degli anni Ottanta e ancora continuano a appassionarsi della storia di questo strampalato e sinistro per qualcuno, ma per me anche sin troppo amabile investigatore dell'incubo. Io comincio a farlo io. Non sono un grande lettore di Dylan Dog perché sono una generazione di mezzo, passo attraverso altre storie, altri fumetti, altri personaggi. L'ho visto in mano al mio figlio maggiore assieme a tantissime altre cose, so di cosa si tratta più o meno. Vi dico i punti in comune che ho con Dylan Dog. In comune ho un passato di persona appassionata alla bottiglia. Lui era un ex alcolista, io ero uno scavezzacollo di provincia, piaceva uscire con gli amici, tornare a casa con le gambe frolle e la testa che mi girava. Non sono mai stato bello come lui. Lui ha questa bellezza sinistra e tenebrosa che poi affonda anche in radici lontane, misteriose, legate a rituali antichi. Lui vive immerso in una realtà che è fra il concreto e l'incubo. Ho vissuto molto nei miei incubi, ho davanti a me gran parte dei personaggi dei miei incubi che ogni tanto vengono a visitare. A voi, anche voi, qualcosa del genere? Quali sono i vostri incubi ricorrenti? Gli incubi di Dylan Dog sono tutti del classico, più classico repertorio degli incubi. Nascono dagli zombie, che è il più contemporaneo degli incubi. I morti sopraffanno i vivi, i morti cominciano a camminare, i morti si cibano dei vivi e i vivi diventano anche loro morti. E questa è una. Poi alcuni particolari. Anch'io avevo un maggiolone bianco. È stata la mia prima automobile, me lo comprai con 4 soldi prima ancora di avere il primo stipendio, e mi ha accompagnato da provincia a Roma per tanti anni. Andavo con il mio maggiolone bianco. Altro punto, il più pericoloso da raccontare, la pistola di Dylan Dog. Dylan Dog ha una strana pistola, una pistola che mai si penserebbe che potrebbe essere l'arma a cui affida la propria vita un investigatore che vive a Londra, perché un vecchio pistolone, è una Bodeo 1889, ordinanza italiana, era la pistola degli ufficiali, era la pistola dei militari italiani, i carabinieri l'hanno portata fino agli anni del dopoguerra, un pistolone a tamburo calibro 10-40. Beh, io vi dico, questa pistola l'ho avuta per le mani da bambino, perché era a casa mia, ce l'aveva mio nonno, non so come, erano anni un po' strani, anni 50 e 60, mio nonno, reduce di 1000 guerre, aveva questa pistola per casa, la tenne nascosta dietro un trave della soffitta, io e mio fratello andavamo a prendere e la smontavamo e ci giocavamo a indiani cowboys con una pistola vera, naturalmente, un pistolone calibro 10-40. Se mai avessimo trovato le pallottole, oggi probabilmente uno di noi avrebbe sulla coscienza un fratellino sparato. Beh, detto questo, vorrei sapere da voi cosa vi ispira innanzitutto Dylan Dog, di cui parleremo oggi nella nostra puntata, e cosa vi accomuna all'idea che possono esserci degli incubi che entrano e escono dalla nostra vita in maniera quasi regolare, come facessero parte proprio della nostra maniera di concepire l'esistenza. 800 24 00 24, a tra un istante. JP Morgan Asset Management vi presenta Melog, Cronache meridiane. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog, l'unico investigatore al mondo che si interessi a fenomeni come fantasmi, licantropi, vampiri o zombie. Il fatto che io creda o meno all'autenticità di tali fenomeni è irrilevante. Ciò che conta è che non mi rifiuto a priori di crederci, come fa la gente seria. Per questo qualcuno mi ha definito ciarlatano e imbroglione. E lo è? Ciarlatano e imbroglione? Può darsi. In ogni caso sarà lei a deciderlo. Ora, fuori la storia. Ecco immediatamente un altro punto in comune che sento di avere con Dylan Dog. Anch'io sono ciarlatano e imbroglione. Se non fossi ciarlatano e imbroglione non farei questo mestiere. Se non fossi ciarlatano e imbroglione non sarei curioso del mondo. Se non fossi ciarlatano e imbroglione non vi porrei domande e ascolterei con attenzione le vostre risposte. Chi non ha una cultura approfondita su Dylan Dog se la farà ascoltando Radio 24, l'ho detto, dal 1 ottobre. E il sabato alle 15, la domenica in replica a mezzanotte, avremo 8 puntate di Dylan Dog, che è un esperimento molto interessante, qualcosa che sa di radio d'autore di altri tempi. Oggi nessuno più investe nella radio che racconta, che narra, che evoca atmosfere, grida corpo a personaggi che siamo abituati a vedere soltanto rappresentati magari attraverso altri supporti, come ad esempio una pagina di fumetti. La regia è di Gaetano Cappa, l'amico K di K e Drago, che è riuscito a trasformare in qualcosa che non esisteva prima, un fumetto. E queste puntate saranno proprio il clou, quelle che maggiormente racconteranno e daranno modo di comporre la personalità di Dylan Dog, che è molto complessa, è molto difficile fare un racconto approfondito su chi sia. Però ripeto la domanda, l'ascoltatore che mi scrive Dylan Dog non mi è piaciuto mai, ero appassionato di Tex Willer, dimostra con questo la anzianità del suo punto di vista. Sì, la generazione di Tex ha preceduto quella di Dylan Dog. Quella di Dylan Dog probabilmente aveva una sorta di momento di osmosi fra Tex e Dylan Dog e poi ha fatto una scelta, ha abbandonato Tex Willer, che appartiene a un immaginario ormai datato nei primi anni del dopoguerra, e entra in Dylan Dog, che non a caso cade proprio a metà degli anni Ottanta. Sono gli anni dell'edonismo, sono gli anni della televisione commerciale, sono gli anni spensierati, e in quel momento proprio appare Dylan Dog, che di spensierato aveva ben poco. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Gianluca e grazie di avermi richiamato. Io ho chiamato perché ho un legame davvero sentimentale con Dylan Dog. L'ho conosciuto a inizio anni 90 grazie alla mia ex fidanzata, che ringrazio ancora per questo. La ringrazierei anche per altre cose, spero. Sì, anche per altre cose, però adesso sono sposato e non intendo... E quindi non puoi evocarla. Non posso dirlo. Comunque, grazie a Dylan Dog io sono entrato nel fantastico mondo del fumetto, perché è stato davvero grazie a questo personaggio straordinario. Ecco, perché lo leggeva una donna, la tua fidanzata? Cos'è appassionata? Dal fascino del personaggio, dall'intrigo delle storie, da questa dimensione di incubo sempre presente? Lei era affascinata, come anch'io, dal carattere educativo di Dylan Dog. Allora, tu prima hai fatto riferimento al ciarlatano, no, eccetera, ma così veniva considerato Dylan Dog, perché c'era molta diffidenza nei suoi confronti, perché lui appunto era l'indicatore dell'incubo. Ma secondo me è un fumetto molto educativo. Io ho due bambine piccole e spero vivamente che quando saranno adolescenti avranno... Ecco, dove vedi il carattere didattico di Dylan Dog? Questo è un discorso interessante. Sul ciarlatano sempre, facendo di se stesso un ciarlatano, un jolly, un buffone, un giocoliere, si possono dire le cose più reali, più concrete, più scomode. Questo ricordatelo. Ma dov'è il carattere secondo te educativo di Dylan Dog? Beh, il fatto che per esempio lui vedeva l'orrore dove solitamente noi lo vediamo. Lui diceva: no, i veri mostri sono magari le persone perfette, no? Le famiglie perfette. Ricordo un episodio, un albo in cui c'era una famiglia dove il marito pretendeva che la moglie tenesse gli asciugamani in bagno ben ordinati, tutto doveva essere perfetto e ordinato. La famiglia del Mulino Bianco, no? Diciamo, c'è qualcosa di preoccupante, di pauroso, e così anche in altri episodi con altri personaggi, lui diceva, lui quando si entrava a casa sua a Craven Road a Londra, tutta la casa era addobbata da mostre e mostriciattoli vari. Ecco, un altro punto in comune: se vieni nel mio studio è pieno di teschi, di cose assurde, rane disseccate. Perché? Perché il gusto del collezionismo, di quegli oggetti che sembrano caricati dell'aspetto irreale dell'esistenza, che però ci dà delle chiavi di lettura molto profonde. Franco Busatta, buongiorno. Buongiorno. Franco Busatta è il coordinatore della testata Dylan Dog. Ho voluto farla stare in ascolto perché, contrariamente a quello che mi aspettavo, pensavo di dover chiacchierare per 20 minuti con signori che mi parlano dei loro incubi, invece stanno chiamando moltissimi lettori di Dylan Dog. Rispetto alla lettura del primo ascoltatore, la trova coerente, corretta? La trovo una lettura assolutamente pertinente e non posso che essere d'accordo con lui al 100%. Il discorso che facevi tu prima del ciarlatano riferito a Dylan Dog, in realtà è una cosa che dicono di lui, ma che assolutamente Dylan Dog non è. E il discorso del didattico che faceva il lettore, io lo riassumo dicendo che il Dylan Dog di Tiziano Scani è sempre stato un personaggio assolutamente politically correct da tutti i punti di vista, per cui dal punto di vista comportamentale è un personaggio assolutamente, tutte le cose che fa sono assolutamente ineccepibili. Ha mai avuto degli attacchi precisi di Dylan Dog? L'aspetto invece buffonesco a cui tu accennavi adesso e può essere ricondotto al personaggio di Gruccio, che è la spalla di Dylan Dog e che invece è l'elemento ironico, comico, dissacrante della serie. Ha mai avuto degli attacchi diretti di Dylan Dog, come tanti altri fumetti, Diabolik, certo, Satanic, sì, sì. Negli anni Ottanta sì, sembravano sì, anni più laicamente ispirati, però Dylan Dog chi è che gli stava proprio sul gozzo dall'inizio, quando si cominciò a palesare come fumetto? E in realtà le polemiche ci sono state non tanto quando si è palesato come fumetto, ma quando si è palesato come boom editoriale. Quindi in quel momento Dylan Dog non ha avuto un successo immediato, ha avuto bisogno di qualche anno per diventare un grande fenomeno di costume. Si parla di un milione di lettori negli anni 90, mi pare. Esatto, sì, nel giro di 3-4 anni appunto il fenomeno è diventato di queste proporzioni e a quel punto si sono poi scatenate anche polemiche che devo dire terrorizzavano molto Sergio Bonelli, che temeva sempre molto questo tipo di cose qua, e approfitto anche per ricordarlo oggi, Sergio Bonelli, perché ricorre il giorno della sua scomparsa oggi. Anche oggi, abbiamo una serie di oggi è il trentennale di Dylan Dog e il giorno della scomparsa di Bonelli. Sì, esatto, sì. Beh, però scrivi all'inizio l'ascoltatore primo che mi ha scritto, mi ha detto io mi piaceva Tex, che Tex era tutta un'altra cosa, talmente buono da essere quasi anestetizzato nei suoi istinti personali. Dylan Dog è qualcos'altro, Dylan Dog è chiaro che è inquietante, innanzitutto è un ex alcolista, è un alcolista, sì, già questo. Infatti era interessante quello che stava dicendo il lettore anche poc'anzi, perché diceva che lui non è passato da Tex a Dylan Dog, lui è arrivato ai nostri fumetti da Dylan Dog. Poi tramite una donna, capisci il passaggio? Vuol dire che esatto, la donna una delle cose molto importanti per noi di Sergio Bonelli editore è stato che Dylan Dog all'improvviso ci ha portato lettori femminili, ci ha portato un pubblico femminile. Noi non l'avevamo mai avuto prima. Scelto un figaccio come Rupert Everett per ispirarvi, è chiaro che... però, avevamo anche già provato, con l'altro, c'era Martin Mister, per esempio, era uscito nell'82, anche quello era un signor, un fiorfior di ragazzone. Beh, però piace questa dimensione un po' maledetta del passato, poi questo lambire queste dimensioni che in fondo poi piacciono gli uomini che hanno a che fare con gli incubi, sembra che li possano dominare e in qualche maniera domare per le donne. Fermo un attimo, due ascoltatori. Nicola, buongiorno. Ah, salve, buongiorno a tutti. Dylan Doghista. Prego, scusi? Dylan Doghista, anche lei? Sì, della prima ora direi. Come è iniziato? Come è iniziato con lei? Come ha cominciato? Ah, è iniziato per caso, trovando un albo ad un amico di scuola, delle superiori, e da lì è nato il tutto. Però dopo, crescendo anche come persona e come lettore, ho evinto come fondamentalmente Dylan Dog, cioè il messaggio che mi mandava era: guarda che poi alla fine della fiera è sempre l'uomo, tra virgolette, il male di questa terra, perché almeno negli albi che ho letto io, questi presunti spiriti o forze eccetera, non si sono mai proclamate in maniera reale. Poi era sempre l'uomo alla fine della fiera che riconosceva il suo male verso gli altri. Quindi è come avere, come avere i famosi occhiali a raggi X che si compravano sugli album dell'Intrepido per vedere le donnine nude. Sì. A Terzo di Landog vedevate l'orrore nelle persone che vi stavano attorno, probabilmente anche nei genitori, nelle fidanzate, nei fratelli, negli amici. Manuel, buongiorno. Ah, buongiorno dottor Nicoletti. Sì, io sono un affezionato lettore di Landog, nel senso che io l'ho scoperto praticamente. Mi ricordo che avevo trovato in edicola la ristampa di Vivono tra noi. E poi da lì mi è piaciuto molto e ho comprato i numeri precedenti, poi ho cominciato a prenderlo regolarmente. E secondo me devo dire che veramente è un personaggio straordinario, perché lo trovo veramente molto originale, nel senso che ogni storia non sai mai cosa può accadere, molto imprevedibile. Ma dimmi una caratteristica, per quanti anni hai innanzitutto? 41. Ecco, a 40 anni leggere i fumetti è un'attività che va oltre il semplice passatempo da ragazzino, quindi è un rapporto mai viscerale. Lo leggi perché rivedi qualcosa in lui di te, della tua vita. Uno cerca sempre quello che è il riflesso della sua esperienza. Ecco, cosa vedi di te in Dylan Dog? Tantissime cose. Il fatto che lui tocchi tematiche, ha toccato tutte le tematiche secondo me, e forse anche qualcosa in più, sviscerandole, secondo me molte persone che avevano dei segreti, proprio degli incubi, come dice lei, no, Nicoletti, che riuscivano a parlarne. E qual era il tuo incubo? Le faccio un esempio, c'è un album. No, dimmi il tuo incubo, vuoi sapere il tuo incubo attraverso i Landog elaborati? Esempio, la paura delle malattie, c'è Mater Morbi, c'è questo album straordinario dove lui è ipocondriaco, figura... lui è ipocondriaco. Dividere la giornata con ipocondriaco è una cosa terrificante, chi lo sa è terribile, perché anche semplicemente se lo guardi, il tuo sguardo sembra che gli crei dei problemi fisici in ogni cosa, non puoi toccarlo, ti cambia gli asciugamani, non puoi dargli la mano, dove ti siedi guarda assolutamente se lasci qualcosa di tuo. L'ipocondriaco è una cosa, è un problema di relazione sicuramente. È chiaro che bisogna imparare a convivere con tutti, ma per l'ipocondriaco vedere di Landò che nonostante l'ipocondria maneggia budella di trapassato, forse questo un po' può aiutare. Noi ci fermiamo un istante, continuate a chiamare gli appassionati di Landog e quelli che hanno curiosità su di Landog. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Melog, cronache meridiane. Devi uccidermi. Devi spararmi alla testa. Solo così io... Solo così troverò la pace. John. Vai a prendere la mia pistola. John. Alla testa. Non voglio tornare. Non voglio tornare. Tornare. Tornare dove, John? Guarda. Che domanda, quando uno ti dice sparami alla testa, non voglio tornare, è chiaro, è stato morsicato da uno zombie e non vuole tornare a essere zombie. Se non gli spari alla testa, non gli fai zompare il cervello, è chiaro che in pochi istanti, appena trapassato, subito si sveglierà e ti morderà. È il tipico morso dello zombie che è nell'incavo fra il collo e la clavicola, ti porta via un bel bisteccone di carne e poi anche tu diventi zombie. E poi vai avanti, cammini, mangi altra gente, via dicendo. Quello che avete sentito naturalmente è un piccolo pezzetto, un piccolo assaggio della versione radiofonica di Dylan Dog, che comincerete a sentire da sabato alle 15, sabato 1 ottobre alle 15. Vi ricordo che essendo oggi, cadendo oggi il trentennale della nascita dell'Indagatore dell'Incubo, che vedo che è frequentato con assiduità dai nostri ascoltatori, quindi saranno felicissimi del fatto che Radio 24 dedica un genere radiofonico ormai desueto che non pratica più nessuno, l'evocazione radiofonica di un personaggio dell'immaginario comune, in questo caso è Dylan Dog. Ricordo che oggi pomeriggio alle 16 cominceranno a girarsi dei morti viventi nei luoghi che vanno intorno a Piazza Duomo, a cominciare da Piazza del Liberty, e poi cammineranno, andranno avanti per Corso Vittorio, si fermeranno al Megastore Mondadori a Piazza Duomo, e lì comincerà il cosiddetto zombie walk, è la passeggiata degli zombie. In mezzo a quegli zombie potrebbe darsi che ci sia anche io. Difficile non riconoscermi, perché io sono zombie anche nella mia manifestazione quotidiana, e quindi più o meno sarò come sono adesso. Stiamo parlando di Dylan Dog con i nostri ascoltatori. Abbiamo Adriano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Non so se è già stato rimarcato il punto che sì, si tratta di incubi, sì che ci avviciniamo a un certo mondo paranormale, parallelo. Però quello che mi è sempre piaciuto di Dylan Dog sono le fortissime storie d'amore. Questo rapporto con le sue donne, se ne contano sulle dita di una mano quelle importanti, perché comunque ogni numero offre la possibilità di accedere al mondo femminile e cambiarlo. Mentre ci sono alcune storie che sono veramente intense, potenti, come il numero Margherita, per esempio, dove lui si innamora di una donna e ogni giorno questa donna cambia volto, si imbruttisce, diventa sempre più brutta, però lui rimane ancorato alla sua vera essenza, la prima volta che l'ha vista. Beh, non trovi che sia una metafora in realtà del decadere fatale di ogni storia amorosa, quando cominci a accorgerti dei difetti della persona che hai vicino, senti l'odore del fiato, vedi le rughe, vedi le smagliature, e vale anche per un uomo, quando cominci a vedere in noi alcuni particolari innominabili, vuol dire che sono i sintomi che l'amore sta decadendo, quindi ancora una volta non è nulla di paranormale, o sbaglio? Ma infatti è così, la cosa interessante è che quando si passa al punto di vista della donna, sullo stesso racconto, anche lei vede lo stesso Dylan Dog, quindi si ce l'ha sempre una verità che deve essere raccontata e veicolata attraverso la metafora dell'orrore. È come se avessero uno sguardo vaticinante su quello che è l'aspetto dell'amore putrefatto, come dice Baudelaire. L'amore in realtà è come una carogna di un cane mangiata da vermi nella sua fase in cui è terminato. Allora, Gigi Cavenago, buongiorno. Buongiorno. Disegnatore di Mater Dolorosa, che è l'album numero 361, che sarà quello che suggellerà i 30 anni di Dylan Dog, e esce il 29 settembre, ma anche disegnatore comunque di Dylan Dog. Mi toglie una curiosità, io vedo anche nel vario avvicendarsi delle matite su Dylan Dog, la figura femminile è sempre tracciata con una grazia superiore, con una ricerca superiore di colpire l'occhio rispetto alle tante figure mostruose maschili. Quanto è importante nella concezione poi del disegno, della pagina, della tavola, la figura della donna? Visto che l'ascoltatore l'ha detto giustamente, è importante il fatto che non abbia sempre la stessa donna, che le cambi continuamente, che sia realistico anche il rapporto che c'è appunto fra la ricerca, la curiosità, il bisogno comunque di darsi, di essere presi. Sì, ma guarda, un'importanza incredibile, perché quando si tratta dell'orrore ci vuole sempre una certa controparte, no? Quindi se da una parte Dylan Dog affronta sempre mostri, qualcosa di orribile a vedersi, in qualche modo c'è sempre un contrappunto e spesso è la donna. Mi viene da pensare che il personaggio del romanzo di Tiziano Sclavi, della morte e dell'amore, affronta proprio questa dualità, cioè da una parte si parla di morte, quindi orrore, decadimento, e amore, che a livello visivo non può che rappresentare come una figura femminile che va oltre, se vuoi, anche il concetto di donna normale. Quindi sì, poi dal punto di vista estetico, quando metti una bella donna in una tavola, di fatto tutta la tavola ci guadagna. Diciamo, qual è il brief che avete voi per fare le donne? Perché le noto, sono donne glamour, senz'altro, con una sorta di rappresentazione non esagerata, mediata, sono donne abbastanza formose ma non sono esagerate, sono donne che si vedono in atteggiamenti abbastanza espliciti ma non si vedono mai le parti sessuali in maniera esplicita, sono donne che anche quando fanno l'amore lo fanno in maniera composta, è un richiamo un pochino a un glamour magari non così frequente nei fumetti, in cui si vede chiaramente di tutto e appare di tutto. Ma sì, di fatto bisogna tenere presente che Dylan Dog nasce come fumetto popolare, che in qualche modo deve prendere uno spettro molto ampio di lettori, quindi si è sempre cercato di raccontare anche situazioni appunto più sensuali, erotiche, con una certa eleganza, con un certo tatto, e diciamo che il glamour è senz'altro il canale migliore per trattare queste cose qui, perché se lo spingi un po' più in là si va nel cattivo gusto. Sì, entri nei fumetti anni 70, ti ricordi? Lando, il montatore, è un'altra cosa, non si può andare oltre, bisogna rimanere in questa zona qua, che erano una generazione di fumetti finalizzata soltanto a essere supporto onirico per attività manuali, fine, ma non è quello. Esatto, mentre Dian Sog ha sempre tentato di andare oltre, poi appunto di donne vale anche il carattere che hanno di volta in volta nelle storie, perché ci sono clienti, persino amanti di Dylan, che hanno magari sono un po' più innocenti, qualcuna come la nostra Mater Morbi, che è praticamente va in giro con un completo da dominatrice sadomaso. Quindi anche lì, a seconda dei personaggi, abbiamo sfaccettature diverse. Però vedo che alla fine l'attività erotica di Landog, lui fa sempre l'amore, non è mai qualcosa di legato soltanto all'istintualità. Alla fine, comunque sia, sono sempre tavole e immagini in cui realmente fa l'amore, sono due che fanno l'amore con molta compostezza, come in quei film di 007, che c'è sempre il lenzuolo sopra e c'è sempre la gente fa l'amore con il lenzuolo sopra. Franco Busatta, ricordo che è coordinatore della testata di Landog, vi siete mai posti il problema a chi vadano in mano gli albi di Dylan Dog? Non c'è mai stato la necessità di porre un limite di età, perché in fondo sono innocentissimo anche dal punto di vista che potrebbe meritare più attacco da parte della lettura da sacrestia di solito di tutte le letture di tutti i fumetti. Certo, e prima accennavo a Sergio Bonelli e a quanto lui fosse attento che nei suoi fumetti non oltrepassassero la barriera del cattivo gusto, e quindi lui si è sempre preoccupato moltissimo, insomma, di questo aspetto. Immagina che Tex fa l'amore una volta, gli muore la moglie, rimane il figlio, basta, poi non si vede più. Esatto, mai più, quello è assolutamente castità totale, al contrario di Dylan. Ma i fumetti che tu citavi prima, che erano quelli di Renzo Barbieri editore, in realtà li ho adorati in un modo pazzesco, anche non solo per l'attività a cui tu alludevi, ma anche proprio in sé dal punto di vista narrativo. Ma ci furono dei grandi disegnatori e dei grandi sceneggiatori. Esatto, che poi sono passati anche in Sergio Bonelli editore, molti. E però Dylan è stato un'altra cosa, perché Dylan invece è stato anche una grande invenzione di Tiziano Sclavi, che è uno straordinario scrittore. Cioè, uno dei grandi motivi del successo di Dylan è la storia, è la qualità della scrittura di Tiziano. Sono i dialoghi di una brillantezza assoluta, sono le idee narrative, è il montaggio, è la cura, è la qualità del disegno. Guarda, è una lettura tipicamente italiana pensare che il fumetto è qualcosa, è un passatempo per bambini o per adulti che non crescono mai. Nella storia mondiale delle storie fumetti, delle graphic novel, è uno strumento di narrazione, di evocazione, di pensiero, di immaginario che pare alla letteratura più sublime, è la stessa cosa, siamo noi un po' viziati da questo. Volevo sentire Alessandro da Roma. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, piacere ascoltarla. Lei è un dilandoghista della prima ora, leggo. Io sono un dilagnato della prima ora. Io ho 44 anni, ho iniziato a seguire Dylan Dog dai tempi del liceo, quindi sono circa 26-27 anni che seguo Dylan Dog. Più che seguo, che seguivo. Vede, per me Dylan Dog, cioè, è facile medesimarsi, soprattutto in quell'età, in una figura come Dylan. La ricerca dell'incubo, in pratica, non è altro che un'esorcizzazione di quella che è la vita reale, la vita di tutti i giorni, la monotonia. Ecco, ma lei faceva questo tipo di ragionamento quando lo leggeva da ragazzo? Perché adesso, in un'età adulta, dice, vedi, lo leggevo perché elaborava quelli che erano i miei incubi. Ma quando leggeva da ragazzo ne era soltanto affascinato, immagino. Non c'era questo ragionamento così raffinato? Il ragionamento, come tutte le cose, avviene con la maturità. Ossia, adesso, facendo analisi retrospettiva di quello che è stato per me Dylan Dog, posso dire che rappresentava tutto ciò. Il problema è un altro, che col andare del tempo io mi rivedevo in tutte le varie categorie dei personaggi di Dylan Dog. Inizialmente mi immedesimavo proprio con Dylan Dog, poi magari con i personaggi di supporto a Dylan Dog, e alla fine, in seguito poi a una rutinarietà che è subentrata, i giorni che si susseguono, la mancanza, diciamo, anche di quella voglia di voler cambiare, di voler combattere la monotonia, quelli che sono i nostri quotidiani, ormai mi sono trasformato anch'io in quello che è lo zombie di Dylan Dog. come posso dire, l'omuncolo, l'omino di tutti i giorni. Che lei sei umarellizzato praticamente, e da umarelle ormai è un mito lontano, non c'ha più luoghi di immedesimazione nelle storie di Julian Dog. Lo guarda ormai come si guarda dal buco della serratura un'avventura meravigliosa della quale non si è più protagonisti. La capisco, ci fermiamo un istante, a tra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Melog, cronache meridiane. Vedo con grande piacere, grande soddisfazione che dà senso ancora più profondo allo sforzo di Radio 24 di trasformare Dylan Dog in qualcosa anche da ascoltare, ascoltare alla radio, da seguire anche a occhi chiusi, non soltanto leggendo. Abbiamo un'infinità di ascoltatori che sono figli di Dylan Dog e soprattutto sono la generazione, vedo, dei 45enni, quelli che hanno cominciato a leggerlo ai tempi del liceo e poi lentamente, crescendo e maturando, avendo esperienze di vita, hanno cominciato a capire il senso profondo, quello non particolarmente immediatamente esplicito. Qualcuno superficialmente potrebbe scambiare Dylan Dog per un fumetto dell'orrore, un fumetto in cui ci sono i mostri, come tanti fumetti dedicati ai mostri. No, vedo che l'operazione che fanno i nostri ascoltatori è un'operazione interessante. Tutti ne colgono il senso profondo, il senso di strumento di elaborazione del proprio quotidiano, con capacità e possibilità di classificarne gli aspetti mostruosi. È d'accordo Gigi Carenago su quello che hanno detto gli ascoltatori, su questa lettura generale? Sì, assolutamente. La superficie però... dire ma io disegno un fumetto dell'orrore. No, lei è consapevole che non disegna un fumetto dell'orrore, qualcos'altro. Praticamente in Dylan Dog l'orrore è sempre stato un pretesto per affrontare qualcosa di un pochino più profondo. Per esempio, i mostri in qualsiasi storia non sono mai semplicemente, come posso dire, quando ero ragazzino pensavo che, prima di leggere Dylan Dog, pensavo che affrontasse la mummia, l'uomo lupo, questo genere di mostri qui. Invece mi sono accorto, quando l'ho letto, che dietro i loro mostri c'era sempre qualcosa di più, è come se il mostro fosse la maschera di un malessere interiore, di una depressione, delle paure, soprattutto del quotidiano. Quindi una delle cose che Dylan Dog dice spesso è che il vero orrore è quello che si vede tutti i giorni nel telegiornale, e non tanto le cose alla Dracula e Frankenstein, che in fondo sono anche divertenti. Sentiamo Matteo da Modena. Matteo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, è un piacere sentirla. Io sono appassionato di fumetti e ho cominciato con Martin Mister della Bonelli, che è un fumetto splendido, e sono passato poi a Dylan Dog in quanto appassionato di cinema horror. Devo dire che quello che funziona di Dylan Dog, più di Dylan Dog in sé, che secondo me è un personaggio riuscito a metà, sono come nella maggior parte... Il mercato non direbbe questo... È un punto di vista interessante. Ma questa è una mia opinione. Perché secondo lei non è uscito? Perché secondo lei, visto che... Perché se è un fumetto che, innanzitutto, secondo me, dopo il numero... Io ho i primi 220 numeri perché sono un collezionista, sono stato collezionista. Però in realtà è un fumetto che, secondo me, verso il numero 50 aveva già detto un po' tutto. Funziona molto per i personaggi, per i comprimari, come succede in genere nei fumetti. Cioè funziona molto Gruccio, Block, diciamo il suo padre putativo che è l'ispettore, ma Dylan Dog tenta sempre dice sempre che non vuole la retorica, detesta la retorica, ma alla fine è pieno di retorica, è sempre corretto, è sempre gentile. È un pochino la mia sensazione, quando disse una volta è troppo buono, ma non lo conosci bene, non è per niente buono, dipende dal punto di vista. Chi come me è profondamente portato alla malvagità d'animo, è chiaro che è troppo buono, è chiaro che per persone che sono più buone, più ottimiste, già è considerato qualcuno che è borderline. Alessandro, provincia di Roma. Sì, salve, buongiorno. Lei come la pensa rispetto a quello che ha detto il suo collega ascoltatore su questo fatto che in fondo Dylan Dog è una persona per bene, tanto per bene nonostante tutto? No, veramente non ci ho mai pensato a questo che ha detto. Forse sulla condivido che dopo i primi 50 numeri inizia a esserci un po' di ripetitività, ma è abbastanza, voglio dire, non è facile trovare nuovi argomenti o nuove tematiche per un fumetto che è comunque dell'orrore. Io ho iniziato a comprarlo perché è un fumetto dell'orrore, perché il primo numero è il famoso L'alba dei morti viventi, e richiamava la trilogia di Romero, cioè, io sono affezionatissimo. Che saranno proiettati questa sera nel corso della grande marcia dei zombie in Piazza Duomo a Milano. A Milano mi piacerebbe tanto. Cioè, vedere gli zombie vestiti da zombie è un'immedesimazione che non si immagina. Io l'ultima velocissima battuta a Gigi Cavenago. Come vede, ci sono due letture: chi lo acquista perché ama il mostro e chi capisce che ci sono i mostri dentro. Ma sulla ripetitività, in fondo è un eroe di fumetti che è sempre vestito uguale dal primo all'ultimo numero, più o meno, quindi fa parte del personaggio comunque ripetere se stesso, o sbaglio? Sì, assolutamente, intanto per una necessità, come dire, di riconoscibilità, cioè il lettore in qualsiasi circostanza, qualunque sia il disegnatore che affronta il personaggio, deve sempre riconoscere che è lui, quindi camicia rossa, giacca nera, jeans e le scarpe Clark. Poi la ripetizione, sì, nel senso, bisogna riuscire sempre ad offrire come dire, lo stesso piatto ma condito in maniera diversa. Infatti anche nessuno l'ha detto, il cinturino ai jeans anni 80, quello fino piccolo, corto, oggi lo metterebbe più nessuno. Lui ancora il cinturino ai jeans nero stretto anni 80, che allora andava tanto, oggi uno si vergognerebbe andarci in giro, ma come pure le Clark, non ne parliamo. A oggi tra gli zombie, se ci sarò mi vedrete, se non mi vedrete sarò truccato benissimo. Alla prossima.